41. Arrivarono al forte a metà del giorno. In testa marciava Joseph Brent, seguito da uno sparuto drappello di volontari e ranger. Kanatawakon, Orognacheta e Canenonte chiudevano la fila, cani di guardia a un gregge. I fratelli Hogue e Daniel Secord erano rimasti indietro con il grosso della truppa, insieme ai ranger di John Butler. Molti altri erano tornati alle fattorie e alle famiglie, troppo stanchi per continuare la guerra. Alcuni si sarebbero presentati a primavera, pronti a ricominciare. I guerrieri Seneca, ancora disposti a combattere, erano pochi, la maggior parte stremata. Voleva trattare una pace separata con i ribelli. Il colonnello Bolton aveva schierato la guarnigione per il presentatarma. Mentre attraversava il campo e varcava il cancello del forte, Joseph colse soltanto miseria. La paura aveva abbandonato quei luoghi per lasciare spazio alla rassegnazione. Profughi e prigionieri si mescolavano nella grande distesa di tende e baracche, schiacciati dallo stesso destino. Stagione dopo stagione, le ondate di esseri umani si erano sovrapposte l'una all'altra, stratificate intorno ai bastioni, escrescenze di un muschio su un tronco d'albero. Un altro autunno si avvicinava rapido. Le foglie scivolavano sul lago, formavano isole mobili di colore giallo e arancione. Joseph pensò che poteva essere l'ultimo per tutti loro. Bolton lo invitò nell'alloggiamento degli ufficiali. Joseph lo seguì, troppo stanco anche per rispondere. «Capitano Brent», esordì Bolton quando si furono seduti, «immagino non siate foriero di buone notizie». Joseph sollevò il mento per vincere il sonno che lo incalzava da giorni. La marcia verso Fort Niagara era stata senza soste. «Sullivan punta su Geneseo. A Newtown gli abbiamo teso un'imboscata, ma ha mangiato la foglia e ci ha preso a cannonate». Non abbiamo potuto fare altro che stare a guardare mentre distruggeva i villaggi Seneca, uno dopo l'altro, e bruciava i campi. Ha 4.000 uomini con sé e l'artiglieria pesante. Stiamo organizzando l'ultima difesa. Sono venuto a reclutare tutti gli uomini validi. Non userò giri di parole, capitano Brent. La situazione è disperata. Metà della gente non supererà l'inverno. È inutile dire che quando i continentali arriveranno potrò evacuare soltanto i miei uomini. «Dove è mia sorella?» Bolton sospirò. «È partita per il Canada. Vuole incontrare il governatore. Servono navi e un luogo dove portare la vostra gente». Joseph pensò alla massa dei disperati là fuori. Pensò a Molly, oltre il grande lago. Pensò ai figli, rifugiati con Margaret a Cayuga. C'era ancora qualcosa che poteva fare. Pendevano dalle sue labbra mentre mostrava loro come si prendeva la mira. Il bersaglio era un ceppo a 40 passi. Uno alla volta i ragazzi provavano a fare fuoco e ricevevano i consigli di Philip. Non bisogna mai restare fermi dopo il colpo, ma correre sempre dietro la preda. Uno dei più grandi obiettò che se l'avesse mancata la preda sarebbe fuggita e certo non si sarebbe fatta raggiungere. Philip annuì. Ma se l'avessi ferita? Correrà finché le forze non verranno meno, allora tu dovrai essere lì accanto a raccogliere la sua vita. Ringrazierai la sua anima per averti concesso la carne e la pelliccia. Ringrazierai Dio e le tue buone gambe. Scorse la sagoma al margine della spiaggia e smise di parlare. Quando ci porterai a cacciare il cervo? Philip ignorò la domanda. Una figura familiare si avvicinava. Alle sue spalle riconobbe Kanatawakon, immobile come una statua, il fucile nell'incavo del gomito. I giovani maschi guardarono il nuovo arrivato con occhi grandi e attenti. Joseph parlò. «Non andrete a caccia di cervi quest'anno. Vi attende un compito più importante». Il tono era fermo. «Un'armata minaccia il forte e le vostre famiglie. Dovrete combattere per loro». Calò il silenzio. «Chi ci guiderà in battaglia?» chiese qualcuno. Tutti si voltarono verso Philip in attesa di una risposta, ma il cacciatore rimase immobile. «Io, Joseph Brent». Il nome li colpì. Lo conoscevano bene. Allungarono il collo, scambiarono mormorii. «Partiamo domani, all'alba. Procuratevi un fucile, ma qualsiasi altra arma può andare». Con un cenno congedò i ragazzi che corsero via, eccitati. Philip si alzò e si accostò all'acqua, lasciando che le onde lambissero i mocassini. Joseph lo raggiunse. Le loro ombre si mescolarono sulla sabbia, fino a che non si ritrovarono fianco a fianco, davanti alla grande superficie fluida. Philip notò che Joseph era invecchiato, la faccia segnata, il corpo pesante e massiccio. «Sei venuto a reclutare i ragazzini?» «Anche i vecchi», rispose Joseph. «Andiamo incontro a Sullivan. Sono venuto a salutarti. Potremmo non rivederci. Il sole iniziava ad allungare la scia di luce sull'acqua. Philip si disse che davanti a quella pace era strano pensare che il mondo finiva. Lunghi capelli biondi gli attraversarono la mente come una vampa. Qualcosa di remoto affiorava su quell'ultimo appiglio di terra, in quella lenta attesa della fine. Molly era andata oltre la distesa d'acqua a caccia di futuro. Chissà se sarebbe tornata in tempo. «Ricordi tanti anni fa, quando scampammo all'agguato sul fiume?» chiese Joseph. «Uno di noi due sarebbe potuto morire allora. Invece fummo noi, non i guerrieri più esperti, a uccidere i nemici e a uscirne vivi». Philip guardò le onde che spianavano la sabbia e cancellavano le impronte. «Dopotutto, percorriamo lo stesso sentiero fin dall'inizio, Joseph Brent». «C'è ancora un tratto da fare», aggiunse Joseph. Philip tornò a scrutare il lago.